questo è il ballo. Lei ha già citato le antiotmelaridecce che mi si attorciglia la lingua. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. È stato che oggi Antocianine, non lo so, Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, oggi buongiorno, oggi abbiamo le papere. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. Felicità basta avere coraggio, all'arrembaggio col qua qua qua. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Già cominciamo a ridere, no? Niente papere oggi, come nella pre-sigla, mi raccomando. Ma io già so che cosa mi vuoi dire. Assumiamo un contegno professionale. Allora, pensa un po' se le macchine avessero un cuore come Herbie, il maggiolino tutto matto. Dovremmo invitarle a Cuore Denari e occuparci anche del loro cuore, direi. Meno male che non... Loro verrebbero molto volentieri. Allora, diciamo che, come dire, perché parliamo di auto e macchine che hanno un cuore? Perché parliamo da una platea, intanto da un... particolare questa mattina, dove ci sono dei professionisti che camminano molto, che percorrono molti chilometri nel corso del loro anno. Allora, siamo con Cuore Denari questa mattina in diretta da Forum Agenti, siamo allo spazio Milano Congressi di Fiera Milano City, all'ingresso di via Gattamelata 5, abbiamo detto tutto, se qualcuno volesse raggiungerci negli ultimi istanti, alla Fiera degli Agenti di Commercio, la manifestazione dedicata ai colloqui di ricerca agenti di commercio e a momenti di formazione e di incontro per questa categoria. È una manifestazione molto importante, soprattutto per chi cerca nuove opportunità di lavoro, oggi è certamente un tema all'ordine del giorno, per chi vuole candidarsi a fare questo lavoro, in questi giorni insomma in Fiera Milano trova certamente gli interlocutori giusti. Noi oggi vogliamo parlare di alcuni aspetti della vita degli agenti, questioni che riguardano certamente molti di noi, ma nei confronti delle quali magari gli agenti del commercio sono particolarmente sensibili. Cominceremo proprio con il fatto che gli agenti di commercio sono sempre in auto, non so se potete confermare o meno, voi che siete venuti a trovarci qua in platea, viaggiano moltissimo, macinano chilometri e quindi saranno particolarmente attenti al fatto che l'auto sia assicurata e magari in maniera conveniente. Possiamo chiedere anche ai nostri amici che ci sono venuti a trovare quanti chilometri macinano nel corso di un anno. E soprattutto... come hanno sottoscritto la polizza RC Auto, se si avvalgono di un consulente tradizionale, un agente di assicurazione naturalmente, oppure se siete andati a pescare qualche offerta online e chissà se hanno fatto confronti con i comparatori di tariffe. Perché l'auto avrà anche un cuore per qualcuno, ma di sicuro muove molti denari. Allora, oggi al Forum Agenti abbiamo portato questo tema perché? Perché nei giorni scorsi, forse lo avrete letto sui giornali, i comparatori di prodotti assicurativi sono finiti sotto i riflettori a causa di alcuni rilievi mossi loro da parte dell'IVAS, che è l'autorità di controllo del mercato assicurativo. Sei i siti a cui è stato chiesto di adottare misure correttive. Oggi vi racconteremo cosa chiede l'IVAS e come naturalmente si giustificano e difendono i comparatori. Voi intanto, sia da casa che in platea, se vorrete, raccontateci se siete mai andati a caccia di informazioni e preventivi sui comparatori di tariffe, come vi siete assicurati e cosa pensate di questa situazione. Per voi naturalmente non c'è bisogno di fare il numero verde, chi invece volesse chiamarci da casa il numero verde è sempre lo stesso. Assolutamente, basta agitare la manina, noi siamo qua e noi vogliamo anche assicurarci del benessere dei nostri agenti di commercio, passano ore e ore alla guida a macinare chilometri, a farne le spese, a volte la linea, ma qua davanti vedo tutte persone in ottima forma. E più spesso a lamentarsi non è il girovita ma il ginocchio dell'agente di commercio, un disturbo che non è ancora inserito nei manuali di medicina ma che andrà ad aggiungersi, Deborah, a quello della lavandaia, del saltatore, del runner, del pantofolaio. Allora, belli e brutti, le ginocchia le abbiamo tutti, un numero verde per raccontarci avventure e disavventure di questa articolazione che ci sorregge ma è che è la più instabile del corpo umano. 800 24 00 24, vi fidate delle vostre ginocchia, vi sostengono bene, vi lanciano dei segnali, dei SOS? Allora lanciateli anche voi al nostro numero verde che è già pronto ad accogliere le vostre telefonate. Come sempre, superate la nostra barriera rosa, anche se non è venuta qui al Forum Agenti, è là attivissima, che presidia in studio. Però devo confessare che le macchine che ho amato di più sono state le prime, la Cadet, interni in simil pelle, la Bian, carrozzeria in simil cartapesta, la Escort, color grigio, simil pantegana. Allora, quanto amate la vostra macchina, voi che siete qua in platea? Oppure, insomma, ne avete fin qua, non ne potete più neanche di vederla, non la portate più neanche a pulire. Alzate la mano, quanto pagate di assicurazione? Posso fare un piccolo sondaggio in platea? 600 euro semestrali all'anno? Semestrali, 1200 euro l'anno. Abbiamo una signora, un agente di commercio, che ci racconta appunto la sua esperienza in questo senso. Noi oggi parliamo di assicurazione dell'auto, delle modalità con cui chiaramente si possono fare preventivi, si può chiedere direttamente ad un agente, si possono andare sui comparatori che oggi sono sempre più utilizzati da molti consumatori, però i comparatori di prodotti assicurativi sono stati messi nei giorni scorsi sotto un po' sotto i riflettori da parte dall'IVAS, l'autorità di vigilanza del settore assicurativo. Io saluto subito, perché l'abbiamo collegamento telefonico, la dottoressa Elena Bellizzi, che è la responsabile del servizio tutela del consumatore di IVAS. Buongiorno e benvenuta. Ecco, io la sento poco, quindi chiedo alla regia gentilmente se mi possono far sentire un po' meglio la voce della dottoressa Bellizzi. Saluto anche, perché invece è venuta a trovarci, qui vicino a noi, Emanuele Sizia, direttore generale di Supermoney. Buongiorno, che buongiorno. È uno dei sei comparatori a cui l'IVAS ha chiesto qualche chiarimento. Dottoressa Bellizzi, ci dice subito questa indagine conoscitiva, perché l'avete fatta? Non c'è? Ecco qua. Allora, è caduta. Vedi? Questo è il segnale che la nostra ospite è caduta. No, speriamo che non si sia sbucciata le ginocchia, perché sennò possiamo farla intervenire nella seconda parte. Qua noi non buttiamo via nulla, poi allora Parleremo anche delle sue ginocchia. Ale. Lo dico io intanto un pochino di sintesi di questa indagine. Intanto questo settore, i sei siti che operano in Italia, pensa Nicoletta che lo scorso anno hanno realizzato qualcosa come 13 milioni di preventivi a beneficio di tutti i consumatori. Quindi, tanta roba. Emanuele Sizzi, a voi da soli quante ne avete fatti? Abbiamo qualche dato? Sì, sì, noi ne abbiamo fatti circa 3 milioni di preventivi, in particolare per l'assicurazione auto. Poi noi preventiviamo anche altri prodotti, esatto, e servizi. Come per voi siete uno dei primi comparatori che sono apparsi appunto, sì, sul mercato italiano. Avete anche una certificazione particolare? Noi siamo che è quella i primi e gli unici per il momento ad avere la certificazione dell'Agicom, e quindi siamo, diciamo, il comparatore per la parte di telefonia, è stato certificato dall'autorità garante per la telefonia, per le telecomunicazioni. Dottoressa Bellizzi, ci siamo? Sì, buongiorno, mi sentite? Perfettamente, guardi, forte e chiara. Assolutamente. Adesso parliamo anche in coppia. Eh sì, ma ormai sai che andava a finire così, lo sapevamo dall'inizio. Dottoressa Bellizzi, ci racconta un po' che come si è mossa questa indagine conoscitiva, perché avete chiamato i sei siti, che cosa non vi era chiaro del loro lavoro? Noi abbiamo avviato questa indagine anche sulla base delle segnalazioni di alcune associazioni dei consumatori. Abbiamo voluto approfondire il livello di trasparenza e correttezza dell'operatività di questi siti. Ne abbiamo analizzati i sei principali, e quello che è emerso ha messo in luce una serie di profili di criticità per i consumatori. Intanto è emerso un problema di conflitto di interessi, perché questi siti oggi comparano solo prevalentemente le imprese di assicurazione con cui hanno stipulato degli accordi commerciali e da cui percepiscono provvigioni per ogni contratto che viene stipulato attraverso il sito, e di questo conflitto di interessi non è data una chiara informativa al pubblico. Quindi non è che contestate il fatto che il pubblico non lo sappia, esatto, in maniera trasparente, sì, e chiara. Sì, tanto che per questo abbiamo chiesto che tra le misure correttive da adottare, che andranno adottate entro il 31 gennaio, venga indicata in home page l'elenco delle imprese con cui sussistono questi accordi e che sia detto chiaramente che il servizio è soggetto a una remunerazione. Poi c'è un tema di indicazione del numero di imprese comparate, perché spesso viene pubblicizzato un numero di imprese comparate, in genere 18-20, che però è risultato dalle nostre simulazioni superiore a quello effettivo. e quindi in concreto quando si quando vengono formulati i preventivi ne vengono fuori 6-7, a volte non di più. E ancora c'è un problema di comparazione che si basa esclusivamente sul prezzo e quindi non sono oggetto di confronto invece i contenuti della polizza RC auto e quindi le rivalse, le esclusioni massimali, aspetti che come sappiamo per l'RC auto per un consumatore possono essere importanti. Quindi questo determina il rischio che sia effettuata una comparazione di prodotti non omogenei e poi che sia offerto un prodotto che non è del tutto adeguato rispetto alle esigenze del consumatore. In altre parole, noi sappiamo che la polizza più economica può non essere la più adeguata ai bisogni del cliente e quindi in questo senso abbiamo chiesto ai siti di fare una comparazione anche dei contenuti, non solo del diciamo prezzo. Sì, ha ragione, diciamo che con tutte le polemiche che ci sono state negli ultimi anni sulla lievitazione del costo dell'RC auto, forse oggi in realtà l'economicità è la caratteristica principale che un consumatore va cercando. Poi certo, magari chi viaggia molto come gli agenti di commercio cerca anche una rosa di garanzie collaterali che accompagni una tariffazione conveniente. Volevo ricordare che insieme a Supermoney, tanto per completezza di informazione, gli altri siti a cui ha chiesto qualche aggiustamento l'IVAS sono chiarezza.it, comparameglio.it, facile.it, segugio.it, seisicuro.it e Supermoney. Non tutti i rilievi sono tutti quanti mossi a tutti e sei, magari un comparatore ha un difettuccio da sistemare, per esempio per voi di Supermoney, Sizia, cosa vi è stato chiesto? Posso saperlo? Ma allora, in particolare un punto che anche la dottoressa Bellizzi ha sottolineato è la parte di maggiore informazione sulle componenti della polizza, che è importantissima e noi già da, diciamo, da prima della segnalazione dell'IVAS stiamo lavorando su un meccanismo che permettesse nella pagina di risultati, quando vengono proposte, proprio viene dato il ranking, certo, delle assicurazioni, anche la possibilità di spiegare quali sono le esclusioni, certo, previste dal contratto, quali sono le rivalse previste dal contratto, anche se sono, diciamo, sono quelle caratteristiche del contratto assicurativo che coprono i casi limite, non so, quando un guidatore fa un incidente e risulta in guida stato di ebbrezza oppure sotto l'effetto di stupefacenti, no? Dici, diciamo, le compagnie non coprono perché sono appunto queste esclusioni. Questo è, diciamo, è uno degli aspetti di trasparenza molto molto importanti. Devo dire, noi siamo molto contenti, per raccontare un po' la storia, noi siamo stati chiamati qualche mese fa da IVAS a produrre tutta una serie di documentazione molto, molto specifica, sia sui nostri assetti societari, certo, tutti questi comparatori. Era sia infatti sugli assetti societari, un'indagine conoscitiva, diciamo, di tutto il mondo. Perché finalmente, diciamo, IVAS ha voluto fare luce su come si muove il mercato dei comparatori online in Italia. Siamo stati convocati a Roma dove abbiamo presentato la documentazione e poi è uscito lunedì tutta l'informazione. Tra l'altro stavo pensando, gli aggiustamenti sono stati chiesti per la fine di gennaio, per cui Natale di lavoro per tutti, e tutto sommato, insomma, i correttivi che l'IVAS chiede sono qualcosa di gestibile che non richiederà tanto impegno. Allora, i correttivi ci sono quelli specialmente legati alla trasparenza, che sono assolutamente diciamo semplici, e noi ci impegniamo a farli prima di Natale, quindi a metterli online prima di Natale. Infatti se voi magari volete invitarci un'altra volta prima di Natale a ripresentare, no, ma guarda, quando vengono poi si affezionano, non se ne vogliono più andare i nostri ospiti, ma così siamo troppo, noi siamo contenti comunque, no, perché di essere molto gettonate, perché rispondere subito è importante, perché noi siamo partiti come nei nostri valori c'è proprio l'importanza per il consumatore, per il risparmio del consumatore vero, ed è anche figlio questo dell'accreditamento Agicom, certo, che abbiamo ricercato. In particolar modo un punto molto importante che la dottoressa Bellizzi ha portato all'attenzione sono il numero di compagnie, il numero di compagnie che si lega direttamente a quante compagnie vengono mostrate nella pagina. Voi quante ne risultati comparate? Allora, perché farle tutte è impossibile, no, e questo lavoro lo fa al momento solo il preventivatore, esatto, dell'IVAS, è proprio allora quello loro che poi magari ci noi al momento abbiamo accordi commerciali. Un'altra cosa a specificare molto importante: noi abbiamo accordi commerciali con compagnie perché noi siamo broker, ecco, noi siamo broker assicurativi online iscritti alla sezione B del registro RUI, registro unico di intermediari assicurativi, e quindi siamo effettivamente broker, quindi abbiamo dei rapporti economici con le compagnie. Lo chiarite nel vostro sito: nel momento in cui un agente di commercio volesse venire a fare un preventivo da voi, c'è una frase chiara in cui si dice guarda che io ho conflitto di interessi, che non è niente di scandaloso, siamo obbligati perché essendo dei broker assicurativi dobbiamo dare al cliente, all'utente, questo è il nostro cliente, tutta l'informativa precontrattuale, quindi i moduli 7A e 7B, ex moduli 7A e 7B, adesso c'è un modulo unico di informativa di condizioni di intermediazione assicurativa. Certo. Quindi e in questi moduli al 7B in fondo ci sono anche indicate le provvigioni che noi prendiamo, riceviamo dalle compagnie. Non ho capito, forse mi è sfuggito, quante compagnie intermediate? Attualmente noi abbiamo accordi con 7 compagnie che sono le dirette, quindi quelle le online esatto, perché il nostro GNFL flusso noi siamo un comparatore online e quindi per noi è molto più semplice tenere tutto il flusso online, però poi noi compariamo anche con un servizio che si chiama assicurali.it, che è rivolto anche agli agenti assicurativi, compariamo in tutto circa il 93% per fatturato delle questo compagnie è anche italiane. Il motivo per cui quel famoso risparmio massimo da 500 euro che indica la dottoressa Bellizzi poco fa lo si ottiene attraverso anche la comparazione appunto delle tariffe sul vostro sito, perché proprio la compagnia online consente effettivamente di abbattere notevolmente i costi rispetto ad una compagnia tradizionale. Poi ci sono servizi diversi, ma ormai i consumatori lo sanno, però arriviamo proprio. Che cosa stava dicendo Marco? Allora, che forse di raccontare il nostro numero verde 800 24 00 24, che non è solo aperto agli agenti di commercio. Ah no, certo, lo vogliamo ricordare. Assolutamente, se gli ascoltatori... A tutti coloro che hanno un'automobile, quindi l'assicurano, e vogliamo capire un pochino se ad esempio avete mai fatto preventivi con un comparatore, potete intervenire stamattina e anche qua dal pubblico, parliamone insomma. Esatto, allora fra un po' la borsa, ma volevo far raccontare magari alla dottoressa Elena Bellizzi di IVAS il funzionamento del loro preventivatore. Il nostro preventivatore che abbiamo creato e gestito insieme al Ministero dello Sviluppo Economico è l'unico al momento che compara tutte le imprese che operano nell'RC Auto, quindi 68 imprese. È un comparatore a cui è possibile in maniera gratuita anonima accedere registrandosi, e che consente dopo la compilazione di un format in cui inserire dati anagrafici, personali e dati relativi al veicolo, alla storia assicurativa, di ottenere in breve tempo un risultato, appunto un confronto del prezzo di tutte le imprese RC Auto. Quanti consumatori? Ah sì, voleva precisare qualcosa. Sì, volevo solo precisare una cosa, ancora mettere in luce un paio di aspetti importanti secondo noi in chiave di consumatori, perché un altro profilo che è emerso dall'indagine è che al momento c'è una tendenza a un abbinamento forzato di copertura accessoria all'RC Auto. Furto, incendio del veicolo, che sono normalmente una copertura richiesta dal consumatore, ma che spesso sono inserite un po' forzatamente all'origine e quindi costringono il consumatore a decliccare, a bene selezionare questa scelta. Ed un altro correttivo che abbiamo chiesto, perché insomma ci deve essere libertà di aggiungere. Certo, c'è un silenzio assenso che non vi convince. Che non ci convince. E poi quei messaggi pubblicitari che possono risultare secondo noi ingannevoli. Certo. Però dottoressa Bellizzi, detto che tutti i rilievi li fate bene naturalmente a muoverli, è corretto che ci siano questi correttivi, però i comparatori hanno dato un certo movimento al mercato che è innegabile. Noi riconosciamo in pieno la potenzialità dello strumento, la capacità che possono avere i comparatori di stimolare la concorrenza in un mercato in cui c'è bisogno di concorrenza, quindi da questo punto di vista lo strumento è uno strumento utile proprio per il consumatore. È importante però che i comparatori agiscano con piena trasparenza, con correttezza, che le graduatorie che espongono siano delle graduatorie assolutamente insomma lineari, chiari, trasparenti, non che non ci siano conflitti di interesse che possano in qualche modo anche alterare i risultati delle comparazioni. Ma detto questo, lo strumento è sicuramente uno strumento utile e potente. Allora Deborah, se il nostro omino che lancia le borse non si arrabbia, no, per carità. Io lo tacito e do la linea ad Alberto che ci chiama da Milano, poi magari lui ci ripagherà lanciandoci lui le borse in diretta. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi Nicoletta, buongiorno Deborah, il vostro ospite. Allora, velocemente, io non ho una esperienza particolarmente positiva con operatori che peraltro da anni, per due motivi semplici. Il primo perché quando mi è capitato di avere la proposta della tariffa migliore, ho poi provato ad andare a fare lo stesso preventivo sul sito della compagnia che mi aveva proposta e più di una volta mi è successo di averlo inferiore come importo, e questo non me lo spiego. E vabbè, da lì anche si capisce l'utilità magari del comparatore, sta anche in questo, no? Perché consente effettivamente intanto di avere un livello da cui partire, poi chiaramente la compagnia stessa può far di meglio. Poi? Esatto, e poi quello che giustamente il vostro ospite prima ha già detto, il numero di proposte che ci fanno non è quella logicamente globale, per cui uno magari, almeno io ero portato all'inizio a pensare che fossero tutte le proposte possibili, invece non era così, tant'è che andavo in rete e trovavo delle proposte infinitamente più economiche di quelle che più comparatori privati, non parlo di quello dell'IVAS, proponevano come essere invece la migliore. Quindi c'è qualcosa che effettivamente limita un po', perché si pensa di avere una rosa completa di proposte, ma così. Poi capisco che logicamente hanno dei rapporti con le compagnie, quindi ci saranno dei discorsi economici. Grazie, grazie Alberto. Grazie. Comunque insomma è anche un bene che voi nella piena consapevolezza conosciate vizi e virtù, diciamo, dello strumento. Cuore e denari. Ritornerò sul ginocchio da te, l'altra non è, non è niente. Ne abbiamo due cose sanno fare: flettersi e stendersi, quello che basta per camminare, saltare, correre, salire, scendere, stenderci, rimetterci all'impiedi, inginocchiarci, e per fortuna che sono due. Ci scrive già un'ascoltatrice con tutti i problemi che ci danno, ma per fortuna che sono due, perché riescono a sopportare meglio il nostro corpo, il nostro peso. Quanto peso fate sopportare alle vostre ginocchia? Quanti altri stress devono sopportare? State molte ore alla guida, come i nostri agenti di commercio, protagonisti della puntata di oggi, o invece avete la passione della corsa, del calcetto? Siete amanti del divano? 800 24 00 24. Nel frattempo prenotate le vostre chiamate e fate anche questo semplice test. Piegate e stendete le ginocchia. Lo sta già facendo anche una signora del pubblico, una alla volta. Potete naturalmente fare questo esercizio se siete seduti e non alla guida, oppure fatelo anche all'impiedi. Allora, intanto che lo fate, cercate di capire che cosa vi dicono le vostre ginocchia. Tirano, scricchiolano, pungono, sentite un piccolo dolore, una fitta, dove? Nella parte anteriore, quella posteriore o forse di lato? Sono tutte indicazioni importanti che rifereremo al nostro esperto, che è già seduto qua davanti a noi e che interverrà a partire dalle 11.45, un esperto che gli ascoltatori di Cuore Denari amano in modo particolare, il professor Roberto D'Anchise. Adesso che piace molto anche a Deborah. Mi chiedo se si è assicurato e come, poi dopo lo interrogo. Primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. 800 24 00 24, continuate a chiamarci e restare in contatto con noi. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. E noi la sistemeremo con il chewing gum. Allora, eccoci di nuovo in diretta da Forum Agenti, la Fiera Internazionale degli Agenti di Commercio. Stiamo parlando di quanto ci costa assicurare l'auto, di come cerchiamo l'assicurazione migliore, e parliamo dell'attività di questi comparatori di tariffe a cui l'IVAS ha chiesto di apportare dei correttivi per quello che riguarda la consumazione e la trasparenza nei confronti, per quello che riguarda la, cosa ho detto? La trasparenza. Esatto, nei confronti dei consumatori. Allora, vedi che sto attenta, Ti ringrazio. Attento, perché io invece stamattina perdo un po' qualche colpo. Con noi c'è Emanuel Sizia, direttore generale di Supermoney. Abbiamo ascoltato prima le osservazioni che, a parte l'IVAS, ha fatto anche il consumatore che ci ha chiamato. Alberto ha raccontato che effettivamente lui, insomma, uno molto attivo, cercava l'offerta migliore, è andato sul comparatore, dice: ho trovato una buona offerta, dopodiché sono andato sul sito della stessa compagnia e lì mi facevano ancora meglio. Ma giustamente magari lì c'era la vostra remunerazione. Allora, devo dire che io vorrei ringraziare la dottoressa Bellizzi dell'IVAS e anche l'ascoltatore, perché hanno esattamente centrato il punto principale di questi rilievi che ha fatto l'IVAS. Le quotazioni, noi siamo il comparatore, siamo il broker, non siamo la compagnia, quindi le quotazioni noi le ricevamo dalla compagnia. Non sempre la compagnia per tutti i profili ha piacere di darci la quotazione, quindi noi non tutte le compagnie hanno questi blocchi, alcune compagnie però hanno questi blocchi. Noi chiaramente, avendo un accordo commerciale con la compagnia, dobbiamo rispettare questo accordo e quindi noi mettiamo a disposizione dell'utente quello che la compagnia effettivamente ci dà. Quindi questa indagine dell'IVAS e i rilievi che sono stati fatti sono sacrosanti, e noi nell'ottica per l'amore che abbiamo per il consumatore e per far risparmiare davvero, che poi la nostra mission principale è proprio aiutare il consumatore a risparmiare, come ho detto prima, noi ci impegniamo e chiediamo, sfido tutti i nostri colleghi di Facil.it, Segugio.it e tutti gli altri comparatori a adeguarsi e a rispondere a tutti i punti dell'IVAS però prima certo di che Natale. Se poi proprio le compagnie stesse mi mettono un po' in difficoltà, come dire, fanno concorrenza sleale, nel senso, cioè mi pare una cosa anche abbastanza strana, no? Noi... che vi utilizzino ma al contempo facciano un po' di concorrenza. Allora c'è da dire che non tutte le compagnie hanno questi blocchi. Noi siamo necessariamente legati a quello che ci restituisce indietro come risultato la compagnia, però un'altra cosa che noi faremo prima di dicembre, sempre prima di Natale sì, come regalo sotto l'albero all'IVAS, è quello di segnalare all'IVAS tutti questi comportamenti delle compagnie, quindi chi fondamentalmente ci restituisce questi blocchi, e mandare una lettera dettagliata all'IVAS, e chiediamo anche appunto agli altri comparatori di farlo. Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, che è un'associazione di consumatori appunto che è molto molto preparata su questo argomento, lo è particolarmente Fabrizio Premuti. Per chi non la conoscesse, Consumere con la K, per cui se volete andare a cercare l'attività di questa associazione ve lo segnalo. Premuti, ha sentito queste ultime considerazioni di Emanuele Sizia di Supermoney? Le compagnie che fanno blocco, per cui effettivamente trasmettono anche al comparatore un'informazione, insomma, non totalmente chiara, e quindi mettono anche loro un po' in difficoltà con i consumatori stessi. Come no, tanto buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta e buongiorno, buon lavoro a lei. Grazie. Ho sentito quello che ha detto, però su questo devo dire che una divergenza rispetto alla mia opinione c'è. Il problema è che la compagnia faccia un blocco e questo blocco viene rilevato dal comparatore, non è che uno lo debba tacere. È vero che uno è legato da un contratto di servizio tra la compagnia e il comparatore, che poi è un contratto di rappresentanza, è un mandato vero e proprio. Ma quando c'è un blocco si infrange la legge, perché c'è un obbligo a contrarre per le imprese, e quando non arriva l'offerta da parte dell'impresa viene violato questo obbligo a contrarre, che è un illecito, e al di là di ogni contratto che uno possa avere l'illecito andrebbe denunciato. Il rilievo dell'IVAS su questo punto è fondamentale, è particolarmente importante, perché questo permette a delle imprese di poter selezionare la propria clientela andandosi a scegliere quelli che vogliono e non offrendo a quelli che non vogliono. Adesso l'offerta va comunque fatta, che poi questa offerta possa rappresentare l'elusione all'obbligo a contrarre perché è troppo alta ed equivale a dire non vi assicurate con noi, questo poi lo rileverà l'organismo competente, che in questo caso è sempre l'IVAS stessa. Però l'offerta va comunque fatta ed è un obbligo che va rispettato. No, ma io, cioè, sì, cioè l'offerta viene fatta, in sostanza è... dalle compagnie, l'obbligo contrario delle compagnie viene rispettato, immagino, sui loro siti. Quello che restituiscono a noi come risultato e quindi ci permettono di mettere a disposizione il consumatore non è sempre la pienezza delle quotazioni. Certo, infatti. Allora, andiamo? Sentiamo prima Gianni. Di andare al nostro suggerimenti per chi è in viaggio, giustamente. Andiamo che a Gianni che ci chiama da Padova, buongiorno e benvenuto. Magari gli possiamo anche chiedere come stanno le ginocchia. Vediamo. Gianni. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Rapido Gianni, che stiamo chiudendo. Sì. A voi due complimenti per la vostra simpatia e la vostra charma. Allora io faccio circa 70.000 chilometri all'anno. Sia con noi Gianni. Ci dica Gianni, assicurazione 70, quanto? 70.000 chilometri all'anno da 30 anni a questa parte. Sì. Assicurazione. L'assicurazione io l'ho sempre fatta, visto che non sono giovanissimo, l'ho sempre fatta interpellando più società di assicurazione e facendomi fare dei preventivi, anche perché via email o via internet non è così facile capire tutte le clausole ed eventualmente poi avere la forza di applicarle. Per avere un potere contrattuale cerco di avere la stessa assicurazione per la mia macchina, quella di mia moglie, quella di mia figlia, per l'assicurazione casa, incendio, furti, eccetera, eccetera, in modo che con la persona fisica che c'è dall'altra parte, in caso di problemi, è più facile dire mi dai una mano per tutto quello che ti lascio, oppure devo cambiare società. Gianni, grazie, grazie. La dobbiamo salutare perché la parte dedicata all'assicurazione è terminata. È una situazione che conosciamo, c'è chi ancora preferisce il rapporto fisico proprio perché se c'è il problema, parlando direttamente con l'assicuratore, si ha la sensazione che si risolva tutto più facilmente, le compagnie dirette danno altri servizi e comunque è un mondo in grande fermento e a noi fa piacere, l'importante è che tutto vada a beneficio dei consumatori. Io purtroppo, Emanuel, devo chiudere questa parte. So che voi oggi ricevete un premio di Deloitte Technology. Oh, bravi, esatto, complimenti. Ci tenete molto e quindi riusciamo a raccontarlo solo in 30 secondi, però insomma vi riconoscono l'autorevolezza. L'autorevolezza, noi siamo stati premiati da Deloitte come una delle 500 aziende EMEA con la più rapida crescita di fatturato negli ultimi 5 anni. Benissimo. Siamo cresciuti di circa 400. Sistemate tutte queste cose con le assicurazioni. Sì, e voi rinvitateci fra una ventina di giorni. Che ne riparliamo. No, ci sta corteggiando. È vero. E dai, rinviteremo anche Fabrizio Premuti che oggi abbiamo sentito pochissimo. Grazie Fabrizio, buona giornata. Grazie a presto. A voi, buon lavoro. Cuore e denari. Mi sprofondai coscienziosamente in tutte e 26 le lettere e arrivai alla conclusione che l'unica malattia da cui ero esente era il ginocchio della lavandaia. Questa scoperta al primo momento mi lasciò piuttosto deluso. Mi parve quasi un affronto. Perché mai non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché questa invidiosa eccezione? Ma dopo un po', grazie a Dio, prevalsero sentimenti meno avidi. Ebbi così la possibilità di riflettere che avevo tutte le altre malattie conosciute dalla farmacologia. E così mi sentii meno egoista e decisi di fare a meno del ginocchio della lavandaia. Ma è molto probabile che Jerome, essendo scrittore, soffrisse di ginocchio da scrivania, cara Deborah. Che adesso, guarda, brava, come sto un po' sofferente. Che si aggiunge a quello della lavandaia, del corridore e dell'agente di commercio. Di tutte queste ginocchia, come anticipato, parleremo oggi nella seconda parte di Cuore Denari con un grande esperto, direi molto il più apprezzato. Il più grande, il professor Roberto D'Anchise, va davanti. Sono, buongiorno, d'accordo, professore. Sono perfettamente d'accordo. Bello, bravo. Intelligente. Andiamo avanti. Disponibile perché viene qua in studio. Primario ortopedico all'Istituto Scientifico a Galeazzi di Milano. Professore, allora noi chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamare il nostro numero verde per raccontarci che attività svolgono, sono agenti di commercio, come gli agenti di commercio che abbiamo qua davanti. Allora chiamateci, fate altro, chiamate ugualmente 800 24 00 24 e diteci anche che sport praticate. Stia attento, professore. Seguo. Se ne praticate. Aggiungete anche un'altra indicazione, diteci anche quanti chili e quanti anni, lo chiediamo anche alle signore, pesano sulle vostre ginocchia. Naturalmente rinnoviamo l'invito a eseguire il nostro facile test di autovalutazione. Stendete, piegate uno alla volta, lo stanno già facendo, ma sembrano le gemelle Kessler. Io ho due agenti di commercio qua davanti e sembrano i fratelli delle gemelle Kessler. Adesso mandiamola al microfono e li interroghiamo un attimo, allora, poi vediamo se fanno ancora gli spiriti. Allungate, stendete, raccontateci se il vostro ginocchio si lamenta. Professore, che dice? Basta questo, dobbiamo aggiungere altro? Ne abbiamo fatto fare. Ne abbiamo fatto abbastanza, sì. Comunque buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, noi parleremo di ginocchia, abbiamo parlato prima di assicurazione, noi vogliamo assicurare anche il benessere delle ginocchia dei nostri ascoltatori, in modo particolare di chi sta ore e ore seduto alla guida a macinare chilometri, improvvisamente poi può capitare, si può avvertire quel desiderio, Deborah, lo sentiamo anche noi quando siamo a lunga alla scrivania, di sgranchire un po' le gambe, il ginocchio inizia a lamentarsi, succede più o meno la stessa cosa al cinema, professor D'Anghise, certo, a teatro, insomma, quando il nostro ginocchio rimane piegato e fermo a lungo. Che cosa ci sta dicendo? Che è in crisi, che è annoiato, che è stufo, che l'abbiamo trattato male? Allora, innanzitutto il test è ben diverso se lo facciamo da seduti o se lo facciamo da in piedi. Okay. È tutto completamente diverso, perché ovviamente con il peso del corpo si possono evidenziare delle situazioni diverse da quelle che sono senza peso. Dopodiché, ecco, vedo che tutti si alzano, ha ragione lei, sembrano le gemelle Kessler a questo punto. Quindi questo è un elemento importante. La macchina, l'automobile, attenzione che non è che l'automobile è la causa dei problemi. L'automobile può evidenziare un problema che fortunatamente nella stragrande maggioranza dei casi è decisamente modesto. Se parliamo di un dolore prevalentemente in scarico, quindi guidando l'automobile, spesso si riferisce ad un'articolazione che è l'articolazione tra la parte finale del femore e la rotula. Una piccola premessa: il ginocchio è fatto sostanzialmente fatto malissimo, non male, da tre formazioni articolari. Una nella parte interna, cioè, allora, un passo indietro, il ginocchio è fatto dalla parte alta finale della tibia, sì, dalla parte bassa finale del femore e davanti c'è un osso che è la rotula. Sì. Quindi già questo ci fa capire com'è complesso. E se valutiamo che la parte finale della tibia è piatta e la parte finale del femore è convessa, questo ci fa capire quanto è ancora più complesso l'articolazione, perché dobbiamo far stare insieme una superficie piatta con due palle sopra. Insomma, due palle su una male. Comunque, ormai l'ha detta, non professore. Possiamo più tornare in via. Diciamo così, che si erano sbagliati e tra tendini, legamenti eccetera, hanno dovuto mettere un po' di corde, che sono i legamenti crociati, i legamenti periferici, hanno dovuto mettere davanti intorno una capsula articolare e davanti hanno messo questo osso che è la rotula. La rotula è l'osso che trasmette la forza del quadricipite, che è questo grosso muscolo che abbiamo qui sulla coscia. Attraverso la rotula si va sul tendine rotuleo che si attacca sulla tibia ed è quello che ci fa tirare su e giù la gamba. La rotula, andiamo avanti, scorre in una specie di solco, mm-hmm, è come una chiglia di una nave che scorre in una specie di solco. Se questo rapporto non è un rapporto perfetto, ecco che è come avere la convergenza delle ruote dell'automobile sbagliate. Certo. Questo comporta progressivamente la comparsa di sintomatologia e nel tempo addirittura l'usura della cartilagine. Tornando al nostro dolore da guida, vuol dire che questa articolazione tra femore e tibia potrebbe essere in crisi, e può essere in crisi o perché nasce male, quindi con una prevalenza di gruppi muscolari rispetto all'altro che spostano un po' la rotula, sì, o per un trauma, o per una scarsa validità muscolare che fa perdere l'equilibrio dei muscoli. Certo. Quindi nella stragrande maggioranza, per rasserenare i nostri agenti di commercio che vanno in automobile, se oltre all'automobile si fa un po' di rinforzo muscolare, stragrande maggioranza dei casi, se non c'è niente di importante, si riesce a risolvere i problemi. 800 24 0024, insomma, Deborah, è un'articolazione abbastanza robusta ma fragile, che non sarebbe nata per stare insieme, ma con tutta una serie di corde, leve e levine, insomma, poverina, la teniamo un po' sotto pressione. Tu tra poco porti le tue ginocchia altrove, come io si dice. Fra un po' vi lascio con Nicoletta, mollo la trasmissione a metà, però volevo stare almeno quel quarto d'ora necessario per stare col professor D'Anghise, tu lo sai che ci tenevo, e comunque insomma è sempre bello essere qua nelle nostre trasferte a monitorare le ginocchia dei nostri ascoltatori. Intanto noi assicureremo il benessere, sì, delle ginocchia di chi ci sta seguendo e degli ospiti che sono venuti a trovarci. Anche tu fai il test, certo. Stendi adesso che vai, sì, stendi, allunghi. 800 24 00 24, raccontateci, noi siamo qua, come stanno le vostre ginocchia, anche quanto siete alti. Ce lo stanno dicendo tutti. Quando è in macchina, ad esempio, soffre più di me, perché lei, avendo le gambe lunghe, io che sono nanette invece sto molto più comoda. Vi saluto, GR, salutiamo Deborah che torna lunedì. Cuore e denari. Camminare. eccoci qua, siamo tornati insieme, siamo a Forum Agenti, vi trasmettiamo da Fiera Milano City, siamo alla Fiera degli Agenti di Commercio e assicuriamo le loro ginocchia, ma naturalmente anche le nostre. In studio con me oggi il professor D'Anchise, il nostro numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24, siete in tanti già a mettersi in contatto con noi, tra poco daremo subito spazio alle vostre telefonate, ma insieme al professor D'Anchise volevo dare un po' i risultati del nostro test di autovalutazione. Abbiamo chiesto di allungare e stendere il ginocchio. Si può fare in due modi, in piedi o da seduti. I risultati sono diversi perché sollecitiamo in modo diverso la nostra articolazione. Allora, professore, iniziamo da chi è seduto e fa fatica a stendere il ginocchio. Sente che il ginocchio tira. Allora, come dicevo prima, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un problema di usura, iniziale usura, o comunque, adesso senza spaventare, di sofferenza della cartilagine della rotula. Quindi un pochino di artrosina. No, dai. No, c'è tempo per l'artrosi, ce ne vuole per avere l'artrosi. Allora, cerchiamo di essere positivi. Ok. Come dicevo prima, spesso si riesce a risolvere con un po' di rinforzo muscolare. Attenzione però che bisogna distinguere, che non è così facile, la situazione di dolore da una situazione di pseudo blocco, cioè come se il ginocchio facesse fatica, come se dovesse andare a posto, per così dire. Allora lì il discorso può essere un pochino diverso, può essere legato addirittura ad una rotula che non sta perfettamente nella sua sede, tende a spostarsi e quindi quelle che noi chiamiamo instabilità rotule, oppure in altri casi questa situazione di blocco può essere legata a delle sofferenze di tipo meniscale, di cui eventualmente poi possiamo parlare anche prima. Anche continuiamo dopo. Professore, con chi invece avverte dolore, ma bisogna anche dire dove, perché la storia cambia in base alla localizzazione del dolore. L'abbiamo detto tante volte, il ginocchio può far male nella parte anteriore, posteriore, laterale, insomma non ce le manda a dire. Professore. Allora, gli elementi, la presenza di un punto doloroso è abbastanza importante. Nella stragrande maggioranza dei casi quello che a noi interessa è se c'è un dolore a livello proprio dell'articolazione, dove avviene il movimento, nella parte interna o nella parte esterna, che può far pensare ad una sofferenza dei menischi. Dico sofferenza perché i menischi si possono rompere in maniera traumatica, nel senso che uno gioca una pallone, caduta, fa un movimento brusco e rompe il menisco nel contesto di un tessuto sano, oppure una usura che è molto molto frequente dopo i 35 anni, e evidentemente sono due meccanismi diversi che comunque comportano come punto doloroso lo stesso punto. Quindi in fondo se noi paragoniamo il nostro menisco, quindi la cartilagine, ad una stoffa, è come se quando un abito diventa un pochino liso. La cartilagine meniscale è una fibrocartilagine che è diversa dalla cartilagine che riveste la superficie articolare. La cartilagine nasce, la cartilagine che riveste la superficie articolare, per rendere liscia, perfettamente liscia le superfici articolari, in modo che possano scorrere le une sulle altre. Allora, chiediamo intanto ai nostri amici che ci sono venuti a trovare se volete intervenire. Il nostro Marco Lombardo si avvicina con il microfono, intanto noi diamo la parola ad Enrico De Imperi. Intanto che voi pensate alle domande le Kessler da fare, non intervengono. Io mi auguro che tutte e due le Kessler intervengano, ma volevo aspettare che si dessero un attimo di belletto, insomma noi non è che siamo subito pronte. Però le Enrico, abbiamo un po' datati, Enrico Da Imperia, parliamo per noi, professore. Enrico, buongiorno Da Imperia. Buongiorno a voi, buongiorno professore. Buongiorno. Volevo sapere innanzitutto che importanza ha l'usura del ginocchio col movimento, nel senso che... Io non ho capito, mi scusi, nel senso che importanza ha? L'usura del ginocchio col movimento. Ah, va bene, abbiamo fatto anche un test dell'udito, vede? Non ci facciamo mancare nulla. Vada, scusi. Poi il liquido sinoviale al ginocchio, che importanza ha? Come si può introdurre con l'alimentazione? Queste cose qua. Allora, una domanda. E poi sì, in assenza di gravità, visto che siamo andati anche sulla Luna, se ne può risentire al ginocchio. Beh, non sono in tanti che hanno l'assenza di gravità qui intorno a noi. Allora, mi sembra che le domande del nostro amico richiedano un piccolo manualetto. Vuole invitarla a scrivere un voglio solo dire che il liquido sinoviale è quello che consente lo scorrimento, cioè lubrifica l'articolazione. Sì. Non c'è modo di ricrearlo, ci sono oggi delle infiltrazioni di cui eventualmente si può parlare dopo, ma non c'è modo di ricrearlo. Questo liquido sinoviale è prodotto dalla membrana che riveste il ginocchio. Per il discorso della gravità, l'unica osservazione che io posso fare, forse ne avete sentito parlare in questi giorni, è che l'assenza di gravità riduce la presenza di calcio nelle ossa e questo comporta un'osteoporosi abbastanza importante, però credo che interessi poco tutti noi interno. Allora, andiamo da Roberto e Mauro, i nostri gemelli Kessler, i fratelli delle gemelle Kessler, oggi vi abbiamo ribattezzato così, intanto vi ringraziamo. Buongiorno. Allora, due premesse. Allora, Mauro, Roberto. Io sono Roberto. Roberto. La prima premessa è che Elena Zarco mi ha detto che nel 2034 andrò in pensione. Ecco qui. Ok. Teniamole lì da conto. La seconda, che ho un cambio automatico da 10 anni. E il ginocchio che, diciamo, mi scrocchia è il sinistro, quindi è quello che non uso. Il ginocchio del cuore. Allora, è compatibile la cosa con il ginocchio del cuore che scrocchia? Bisogna chiedere a un cardiochirurgo, io faccio un altro mestiere. E niente, l'altro problema è che a fare pressione fa male sopra alla rotola. Posso dire. E ogni tanto si blocca. E ogni tanto si blocca. Lo deve cambiare. Non parla e non fa il caffè. Non ci sono Non può buttarlo via. Qui ci sono due o tre osservazioni da fare. La prima è che il ginocchio che fa rumore, tanti pazienti dicono che il ginocchio fa un sacco di rumore, non ha nessun significato se non fa male. Quindi, se non fa male. Se fa male, rientra probabilmente in una iniziale usura della cartilagine, ma come sempre bisogna fare attenzione all'entità dei problemi prima di pensare a che cosa fare. Mi spiego meglio. Se la sintomatologia è una sintomatologia modesta, assolutamente tollerabile, si fa un accertamento per vedere che non ci siano problemi particolari e gli accertamenti da fare sono essenzialmente una radiografia e una risonanza magnetica. La TAC e l'ecografia non servono per problemi articolari, servono solo per problemi extraarticolari, le borsiti, cioè per vedere le parti molli superficiali, non riescono a far vedere niente all'interno dell'articolazione. Eliminato questo problema, cioè che non ci sia niente di importante ed è una situazione tollerabile, ripeto quello che ho detto prima, molto spesso con una buona riabilitazione muscolare si riesce a risolvere tutto. Riabilitazione muscolare però che deve essere fatta senza sentir dolore. Faccio ciclismo? Sì, però con riabilitazione muscolare che cosa intendo? Esatto, io intendo proprio una riabilitazione specifica che consenta alla rotula di migliorare la sua posizione. La rotula, dicevo prima, trasmette la forza del quadricipite. Il quadricipite vuol dire che sono quattro muscoli che arrivano. Alle volte c'è la prevalenza di un muscolo sull'altro che tende a spostare la chiglia della nave, come dicevo prima, un po' di qua piuttosto che un po' di là, di solito è un po' di qua, e allora rinforzando la muscolatura molto di spesso nuovo si rimette in equilibrio, a riequilibrare questo. Allora, avevamo anche un altro piccolo problema, e cioè che ci stanno anche raccontando molti ascoltatori al 349-238-6666, il dolore che si avverte con la pressione. A volte non ci capita tanto di toccarci il ginocchio, no? Basta professore, non toccarlo. Ecco, non toccatelo il ginocchio, veramente possiamo dire così? No, voglio dire io dico sempre che la ricerca della malattia è una follia. Bravo. Allora, molto meglio chiamare l'800 24 00 24 e partecipare a Cuore Denari. Abbiamo un intervento anche di lì di fianco, ma no, le hanno tolto il microfono. Intanto, come si chiamavano le Kessler? I fratelli delle Kessler si chiamano Roberto e Mauro. Come si chiamavano le Kessler? Alice ed Ellen Kessler. Buongiorno Ellen. Vi presento la mia scheda. Allora, 60.000 km l'anno, 58 anni. Quando cambia il motore? Tra 3 anni. Allora, 58 anni, 1,78, 80 kg di peso. Io di tutto il corpo, per il momento non ho male al ginocchio. Oh, fantastico. Ho male dappertutto, non me lo vado a cercare. Braccia, schiena. No, volevo solo fare questa domanda. Sì. Una corsettina di 10 km a settimana può provocare dei problemi? Assolutamente no. Bene, grazie. Mi fa piacere fare un'osservazione. Se uno ha male dappertutto, di solito non ha niente. Esatto. Evviva. Allora, andiamo a Virgilio della provincia di Pistoia, no, e poi a Francesca. Dico questo perché spesso i pazienti vengono dicendo: sai, io ho male dappertutto. Io dico: perfetto, allora non ha niente. Allora, a proposito di bici, andiamo nella provincia di Pistoia, c'è Virgilio. Buongiorno Virgilio. Buongiorno. Che succede? Buongiorno. Buongiorno Virgilio, noi la sentiamo. Eccola. No, io sono sempre stato uno sportivo, sai, ho giocato per 30 anni a tennis senza avere nessun problema alle ginocchia. Ora è 3 o 4 anni che vado in bici da strada e negli ultimi 5-6 mesi ho cominciato ad avere dei problemi a entrambe le ginocchia. Sono stato da un ortopedico, da un paio di ortopedici, così a farmi fare un controllo con una risonanza, e mi hanno diagnosticato questa tendinopatia femoro-rotulea. Ecco, volevo sentire dal professore quello che lui pensa riguardo a questa diagnosi. Lo abbiamo già detto, forse lei non si è espresso perfettamente, non è una tendinopatia perché si parla dell'articolazione che c'è tra il femore e la rotula, però nella stragrande maggioranza dei casi, come dicevo prima, se il problema è realmente femoro-rotulea, nella stragrande maggioranza dei casi una buona riabilitazione, qualche antinfiammatorio e magari della fisioterapia può dare un beneficio. Ripeto, la ginnastica però non è che uno va in palestra e finita lì. Ecco, conviene sempre andare, farci impostare un po' gli esercizi. Bravissimo, io dico sempre di farsi aiutare da un terapista. E aggiungo che una delle osservazioni che spesso faccio: quando si va dal fisioterapista non bisogna pensare che il fisioterapista risolverà il nostro problema. Io dico sempre ai pazienti che il fisioterapista è come un insegnante che spiega, fa fare i compiti in classe, ma se non si studia a casa non si riesce a risolvere il problema. Il chirurgo meno lo utilizziamo meglio è. Francesca da Pordenone, stiamo lontani. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora io mi definisco una mini runner perché faccio una mini media runner. Sì, perché corro due o tre volte a settimana, faccio una media di 4-5 km. Proprio oggi mi è capitato per la prima volta di sentire un forte dolore al ginocchio nella parte frontale, sotto la rotula, diciamo. E mi sono un po' spaventata, non sono riuscita a proseguire nella corsa, ho rimediato, perché non riesco a rinunciare al movimento, ho rimediato con una camminata. Non mi era mai successo, è vero che ho 50 anni. Però è una bambina. Allora, di solito i runner, professor D'Anchise, ecco, stringono qui i denti. Io ho un grande runner in linea con noi che interverrà tra poca chiusura. Sì, diciamo che prima una delle Kessler mi chiedeva se fare 10 km alla settimana può avere un significato o meno. Allora, la corsa è certamente tra le attività sportive più impegnative per il ginocchio, sì, perché oltre al passo, diciamo così, c'è il saltellino che noi facciamo, certo, quindi il contatto con il peso del corpo venendo un po' dall'alto, e quindi è molto pesante, quindi il ginocchio deve essere perfetto per poterlo fare, e attenzione, non bisogna esagerare. Questo può essere per lei, spero di no, un piccolo campanello d'allarme che non va che trascurato. Forse il suo ginocchio potrebbe cominciare a non tollerare tanto. Allora, proviamo a salvare le ginocchia della nostra ascoltatrice, di Francesca, ma anche di tutti coloro che praticano la corsa a livello anche amatoriale. Tra poco ci sarà la Maratona di Firenze, 31esima edizione, oltre 10.000 iscritti. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Marco Marchei, direttore della rivista Runner World, per darci qualche consiglio salva ginocchia a chi sta preparandosi per la maratona. Marco, ciao, benvenuto, un minuto. Buongiorno a tutti. In un minuto, allora, di corsa, quattro consigli, tre, dai. Certo, Nicoletta, parto dicendo che mi piace parlare molto di più l'ascoltatrice che per quelli che si preparano per la maratona, quelli effettivamente usurano un po' il loro ginocchio facendo molti chilometri, per chi di chilometri ne fa anche meno e che magari comincia a correre subito dopo essere stato magari delle ore parecchio tempo seduti dopo il lavoro, sì. Uno dei consigli che normalmente diamo è quello di cercare di incominciare prima di correre, incominciare a passare qualche minuto riscaldando il ginocchio. Può sembrare assurdo, ma è assolutamente utile, per esempio stando seduti su un piano rialzato e facendo penzolare le gambe in maniera che il ginocchio si muova, l'articolazione incominci a muoversi in scarico e quindi che in qualche maniera si autolubrifichi, perché c'è un po' di secrezione che mette, come dire, che olia, ma subito ad oliare l'articolazione. Marco, io ti devo salutare, però diamo appuntamento sulla pagina di Cuore Denari con i consigli di Marco Marchei. Io mi tolgo le cuffie e vengo a registrarti e tra mezz'ora lo potete ascoltare collegandovi sulla nostra pagina. Grazie a Marco Marchei, che ci sentiamo tra poco, al professor D'Anchise, agli agenti che sono venuti a incontrarci. Lascio la linea al GR, vi auguro un buon weekend.